La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 135. La Corte Costituzionale è composta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio. I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine, il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. L'articolo 135 riguarda la composizione della Corte Costituzionale. I costituenti discussero lungamente su come comporre la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale è un giudice, ma è un giudice che deve avere una sensibilità politica. Infatti, come detto negli anni 50 da Arturo Carlo Jemolo, la Corte Costituzionale legge il diritto con gli occhiali della politica, in quanto deve prendere decisioni che sono molto a ridosso del mondo politico. In fondo si tratta di capire se una legge approvata qualche mese prima dal Parlamento sia conforme alla Costituzione. Ovviamente è una decisione che tocca anche l'ambito dei rapporti politici. Prendiamo un tema di questi mesi, la legge sui vaccini. Ma la legge sui vaccini rispetta le competenze regionali o ancora rispetta il diritto alla salute e il diritto alle cure obbligatorie dell'articolo 32? Ovviamente subito dopo l'approvazione parlamentare si arriva in Corte Costituzionale per verificarlo e la Corte Costituzionale è quindi un giudice che legge con gli occhiali della politica. La sua composizione, infatti, rispecchia questo particolare assetto. La Corte Costituzionale è composta essenzialmente di persone che abbiano una competenza giuridica. Infatti l'articolo 135 richiede che per essere eletti giudici costituzionali bisogna avere il titolo di professore ordinario in materie giuridiche, quindi un professore universitario, essere magistrato di corti superiori, quindi un magistrato di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, o ancora essere avvocato con almeno 20 anni di esercizio nella professione. Quindi tutti i giudici costituzionali debbono rispettare questo requisito di qualificazione giuridica. I metodi di elezione e nomina sono invece tre, perché i 15 giudici della Corte Costituzionale sono nominati da tre soggetti differenti. 5 sono nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune e gli ultimi 5 sono invece nominati con un'elezione dalle Supreme Corti, 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti. In questo modo si completa questa composizione articolata della Corte, che vede sicuramente mescolare una base di competenze giuridiche, ma anche con una sensibilità politica. Infatti, i giudici costituzionali che vengono eletti dal Parlamento hanno una maggiore colorazione politica. Quelli che invece vengono nominati ed eletti dalle magistrature superiori saranno ovviamente dei magistrati ad orientamento più tecnico. In questo modo la Corte riesce a combinare questa mescolanza dovuta di sensibilità giuridica e politica. L'articolo 135 della Costituzione stabilisce anche la durata del giudice costituzionale, che è una durata molto lunga, 9 anni, 9 anni non rinnovabili. È la carica a durata maggiore nel nostro sistema costituzionale, perché sappiamo che la legislatura delle Camere è 5 anni, il Presidente della Repubblica 7 anni, la Corte Costituzionale 9, addirittura la prima stesura prevedeva 12 anni per i giudici costituzionali, perché il giudice costituzionale deve cercare di dare anche una stabilità al suo giudizio e quindi la lunga durata rende l'organo più autorevole e più stabile.